fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua a Ristoradio Convento in compagnia di queste ragazze che salutano la sposa in maniera particolare. Salutate l'amica come fate di solito. Ciao Ave! Ciao amiche. Allora Ave, prendi la cuffia del tuo momento. No, io ragazze mi aspettavo il saluto quello romano. Ave, eccola, adesso ci siamo, no? Giusto? Ecco. Perché dobbiamo dire ai nostri amici a casa che la sposa si chiama di nome? Ave Miria. Ave Miria proprio? Sì. Ma tutto attaccato o staccato? Staccato. Ave staccato Miria. Fantastico, quindi cosa hai detto ai tuoi genitori quando hai scoperto? Ecco. Non so se avevo un debito con la Madonna. Così? Voi ragazze quando l'avete conosciuta ci credevate o no che si chiama così? Inizialmente no. E dopo? Dopo un po' ci siamo, cioè alla fine gli abbiamo creduto. L'avete creduto, adesso l'avete presa per buona. Dopo tanti anni che la conoscete, avete deciso di prenderla per buona così. E la salutiamo sempre come Ave. E i vostri nomi? Alessia, Elisa, Daniela. Ecco, mi piace, lei urla, va bene, brava. Lei urla sempre, ecco. Tra l'altro siete state protagoniste di un video bellissimo stasera. E non ve lo ricordate? Sì. Non ci ricordo un cavolo quando siete arrivati. Sono già ubriaca. Sono andata, esatto. Perché non ricordo. Tutto lo ricordo. Beh, le veline, esatto. Ma soprattutto lei faceva la gondoliera. Esatto, la gondoliera. Ecco. C'è stato anche un bacio, ecco. Che? Saffico. È una parolaccia? No. Era fico? È stato. Sa che fico. Un braccio proprio fico, ecco. Tanto lei da timoniera si è anche esaltata per questo, giusto? Sono sentita importante essere una gondoliera. Essere una gondoliera e vedere le tue amiche che si davano un bacio anche. Esatto. Perché abbiamo interpretato la scena della proposta di matrimonio, esatto, tra me e Andrea. Che esatto, si chiama Cesare nell'intimità. Ah, Cesare, esatto. Ecco, esatto, perché Cesare. Stiamo a Venezia, tra l'altro. Esatto. Lei è arrivata dopo però, era sott'acqua, sta facendo il sub. Sì. E lei è famosissima sub di Venezia, lei piace fare così, andare a vedere, si immerge a Venezia. Mi piace spuntare all'improvviso. Davvero? Mi piace... Sempre, cioè la sua specialità è spuntare all'improvviso? Esatto. E quindi lì a Corte Franca lei spunta all'improvviso, esatto, quando uno meno se lo aspetta. Lei è la tigre del Sebino. La tigre del Sebino. La pantera del Sebino. No ragazzi, è una cosa incredibile, stasera abbiamo la tigre del Sebino. Ci fai un ruggito al microfono? Hai ruggito, Dani? Vado. La vedo molto tigre del Sebino, eh. Vai. Che fai? Ha grippato? Sei grippato? Ma che cos'è? Non si riesce meglio il gatto però, eh. Prova a fare il gatto adesso. Miau. Ragazzi, quanti ne ha bevuti la tigre del Sebino? No, ma che così normalmente. Ah, è sempre così? Esatto. Mi piace questo passaggio della cuffia che esatto, cambia tutto. Con la cuffia cambia tutto, lo so, è tutto più bello. Ci sta, la tigre del Sebino ci sta, l'ha appena annunciato alla nazione. Esatto. Perché sei single? Si è può dire? Single in cerca. È single in cerca dell'aldilà, diciamo di... Come dell'aldilà? No, stai qua. Stai qua. Stai... Un'altra tigre, diciamo. Come lo desideri? Come... Femminile, molto femminile. Vuoi un tigrone femminile? Una tigrotta. Una pantera. Ah, ma che bello, fantastico, una tigrotta per la tigre del... Se è leonessa meglio ancora, quella... Questa è un annuncio graffiante, ragazze. Okay. Un annuncio graffiante, mentre tu, Ave, il tuo tigrone, ce lo descrivi? Ma ce lo descrivi un po'. È alto 2 metri. Ah, è alto 2 metri? Sì. Poi? Ben piazzato? Non so. Confermate? Ok, confermiamo. Ecco, che fai, il segno dell'armadio mi fai? Fa il macellaio. Sì. Oh. Lavoriamo insieme. Ah, poi anche tu? Fa la macellaia. Sono macellaio con lui. Ah, fai la macellaia, ma da sempre o da quando hai conosciuto da lui? Da quando ho conosciuto mio amoroso, sì, lavoriamo insieme. Ma cos'è quello che si muove? Ah, era una cosa strana. Okay, ecco, quindi sei diventata macellaia per amore? Sì. Ma che bello, ma ragazzi, guardate, è una cosa incredibile. Chi lo farebbe di voi, eh? Nessuno, immagino. Infatti, quindi questo è vero amore, perché okay, una ragazza che diventa macellaia è proprio amore allo stato puro, quindi... Ci inviterò alla grigliata, insomma. Ci invita tutti alla grigliata. Ecco, tutti gli ascoltatori che sono in ascolto in questo momento, chiamate al convento per le prenotazioni della grigliata a casa dell'Ave. Okay. Okay. Esatto. ci saranno anche le nostre amiche Alice e Elisa e la Tigrotta, sempre che non ci sia un'altra Tigrotta, perché sennò è assente, ecco. Va bene, quindi grigliata per tutti. Ah? Ah? Che cos'è? Questo si è già prenotato, sta già chiamando, vedi. Questo si vede che è tigrone, eh? Ecco, ragazzi, siete state colpite dai ragazzi del convento, di queste. Insomma, dipende. Infatti vogliamo fare una volta una puntata tipo convento Quark. Non so, magari. Sulle evoluzioni della specie. Ecco, guardate questo. Questo può andare. Le veline dicono sì per questo. Questo è già un po'. Quest'altro? Questo no. A volte questo anche no, bocciato. Questo, quell'altro sì, però. No, è un po' strano. Tu, vabbè, non guardarli che ti devi scusare. Ormai sei fuori concorso. Ok, non parlo. A volte, ragazze, capita, perché adesso ci vedono un po' con le webcam, ma sembra un po' lo studio del Grande Fratello, no? Vedete? Si vede, no? Selezione. Però da fuori può sembrare anche un acquario, perché voi eravate fuori prima e vedevate quelli dentro. Sembravano mica tipo dei pesciolini nell'acquario. Scatta un po' l'effetto acquario. E a volte invece quelli fuori si attaccano con le labbra al vetro. Il pesce pulitore. Nasce la sindrome del pesce pulitore e si appiccica così al si appiccica. Che storia. Va bene, e torniamo così per il gran finale di questo racconto. E allora, Tigrona, Tigrotto. Tigrotta. Voi le veline sono fidanzate, abbiamo detto, giusto? Io sì. La vedo incerta. Che fai, sei in trattativa? Esatto, hai un contratto a chiamata? Esatto, in trattativa. Hai un contratto a chiamata ancora? Siamo ancora nella fase iniziale? Siamo nella fase della valutazione. Ah, della valutazione, ok, ecco, facciamo così. Perché tu sei impiegata, no? No, io vendo oro. Ah, che storia, hai visto questa. Gioielli. Che ragazza gioiellosa, gioiellosa. Ok, quindi è nella fase trattativa. Vabbè, tu Belina sei a posto invece? Fidanzatissima. Quindi mamma mia, che roba, si sente l'amore che. Quindi è la prossima lei, dici? Sì, secondo me sì, è la mia testimone, direi. Allora, la prossima lei e le altre due mi sa che sono a spasso. Ecco, hai trovato la Tigrotta finalmente! E non lo so, magari una Tigrotta così! Magari una Tigrotta così, eh! Ah, magari. Tanta roba, perché prima l'abbiamo fatta anche sfilare e. Esatto. Ci sta, lei ci sta, cioè. No. No, non dirlo così alla radio, che sennò qua scatta così le chiamate, dopo vengono tutti a fare c'è anche grigliata dopo. A casa mia, esatto. Fantastico, tante bellissimo. Tigrotte a casa mia, okay. Tante tigrotte alla grigliata di Ave. Okay. Quando è che si terrà la grigliata? Magari una settimana dopo il matrimonio, ecco. Mi sposo l'11 maggio. E non fai il viaggio di nozze? Lo faccio l'anno prossimo. Sei quella che va in? Africa. Sudafrica, è vero, sì. L'abbiamo. Perfetto. Aspetti un anno perché devi riprenderti. No, perché c'è anche il matrimonio di mio cognato, il fratello. Ah, quindi. Non riuscite a fare tutto. Giusto. Va bene, allora, due si sposano, due no. Teniamo. Ma hai cambiato idea. Che c'è un cambio di idea incredibile. Cioè, no, lei è fidanzatissima, ma non mi sposo. Oh, ok, l'altra era in trattativa. Nel frattempo si è già mollata praticamente, ecco. Fantastico. Per andare con la Tigrotta. Esatto, per la Tigrotta. Una storia incredibile, ragazzi. Ecco. Li salutiamo. In pochi minuti è nato una cosa. È una storia d'amore alla radio del convento, quindi mamma c'è tanta roba. Tanta roba, ok. Salutiamo? Ok, un bacio ragazzi, seguite il convento. Esatto, seguite il convento, mettete il like alla pagina di Facebook e di Instagram. Avete visto anche col dito? Esatto. Like subito, cercate. Sì, sì, fatelo tutto così, dai. Like, seguite il convento, minacciateli. Seguiteli, mi raccomando. Altrimenti niente grigliata, niente invito, niente di niente. Niente di niente, quindi tanti like. Esatto. Ciao dalle ragazze di Portefranca. Portefranca. Quella. Ciao. Ciao.